Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, partiremo subito dalla sentenza arrivata a metà pomeriggio della Corte Costituzionale, o meglio la comunicazione della sentenza, che ha, alcuni la definiscono pilatesca, rievocando Ponzio Pilato. In realtà mica tanto, nel senso che un effetto ce l'ha la Corte Costituzionale, se vogliamo usare l'esempio. Non se n'è semplicemente lavata le mani, perché ha detto che è illegittimo il blocco dei contratti degli stipendi della pubblica amministrazione, non per il passato, e quindi detto non in maniera retroattiva, però non potrà più essere applicato dal 2016. Ora, secondo i primi calcoli del Sole 24 Ore, questo comporterà un onere aggiuntivo, una spesa aggiuntiva per le casse pubbliche di 1.700 milioni di euro per l'anno prossimo, e chiaramente deve entrare in finanziaria a un certo momento nella legge di stabilità. 1.700 milioni non è poca cosa. Tra l'altro, nel 2014 la spesa degli per gli stipendi della pubblica amministrazione, sono circa 3 milioni di dipendenti della pubblica amministrazione in Italia, che non vuol dire solo quella statale, per evitare confusioni, è stata pari a 163,8 miliardi, praticamente un miliardo in meno rispetto al 2013 e quasi 2 miliardi e 2 in meno rispetto al 2012. Se l'Avvocatura dello Stato, se la Corte Costituzionale, come ha calcolato l'Avvocatura dello Stato, avesse accolto tutti i ricorsi, cioè dichiarando illegittimi in maniera retroattiva anche i blocchi dal 2012 al 2013 al 2014, lo Stato avrebbe dovuto sborsare 35 miliardi di euro, cioè quasi due manovre finanziarie. Se la bocciatura avesse riguardato solo il 2014 e il 2015 si sarebbe scesi a 7 miliardi, adesso ripeto il calcolo è di poco meno di 2 miliardi per il 2016. Di questo parleremo, dicevo, in apertura. Parleremo anche di Grecia oggi. La situazione si è veramente... Allora, dire che la situazione greca si è ingarbugliata sembra appunto fuori luogo, perché da sempre ingarbugliata, però c'è di nuovo uno stallo. Vedremo cosa capiterà al vertice dell'Eurogruppo straordinario delle 19. Se, da quello che abbiamo capito, e come già anticipato ieri, è soprattutto il Fondo Monetario Internazionale ad aver puntato i piedi. In sostanza, Fondo Monetario Internazionale continua a dire che vuole l'aumento dell'IVA su cui la Grecia resiste, e poi critica la Grecia per un eccessivo ricorso ad aumenti generalizzati delle tasse al posto dei tagli alla spesa, questo per risanare i conti. La borsa di Atene ne ha preso atto perdendo oltre il 4%, le altre borse europee sono deboli ma niente di preoccupante, meno 0,6 Milano, meno 0,3 Parigi, meno 0,75 Francoforte, Londra, che non è nell'euro, più 0,30%, il Dow Jones in America, così concludiamo sulle borse, perde lo 0,30%, euro a quota 1,11. Dicevo, la Grecia invece ha proposto di aumentare dal 26 al 29% le tasse sulle società, con una tantum del 12% sui profitti superiori ai 500.000 euro. Vuole mantenere le tre aliquote, quella del 6,5%, del 13% e del 23%, ma porterebbe al 23% quella su alberghi e ristoranti. Alcuni hanno commentato: pagano i turisti. Sì, in effetti sarebbe così, ma sappiamo che il turismo è una delle principali fonti di introito, una delle principali attività produttive della Grecia. E poi arriverebbe all'eliminazione delle aliquote agevolate per le isole, e aumenterebbe anche i prelievi sulle grandi barche, e bloccherebbe i pensionamenti anticipati dal 2016. Varoufakis dice: siamo alla stretta finale, oggi a Bruxelles arriverà anche Tsipras. Onestamente, ma per quello che ne capiamo e quello che vediamo, non ci sembra che le proposte della Grecia siano così distanti da quanto richiesto, per cui non vorremmo che ci fosse solo un fondo monetario a puntare i piedi per via di principio, non capendo quello che si rischia con il resto. E ripeto, di questo parleremo in una giornata in cui, oltre alla Grecia e agli stipendi della pubblica amministrazione, ci occuperemo anche delle nostre imprese e di un dato positivo, ossia i protesti delle imprese sono tornati ai livelli del 2007. Secondo l'analisi del CERVED, sono circa 15.000 le società protestate tra gennaio e marzo di quest'anno, che è un numero alto, però è il 18% in meno rispetto allo stesso periodo del 2014. Tra l'altro, l'altra buona notizia è che c'è anche una riduzione dei tempi di liquidazione delle fatture e dei ritardi nel pagamento delle fatture. La liquidazione media è di 76 giorni contro i 77 dei primi tre mesi del 2014. I ritardi sono scesi di un giorno a 17 giorni di ritardo medio rispetto ai 18 dei primi tre mesi. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Avremo anche un collegamento con Arese, dove in questi istanti sta iniziando la presentazione nel Museo Storico dell'Alfa Romeo, che riapre dopo 4 anni, della nuova Giulia, che rappresenta qualcosa di più di un semplice modello per il gruppo Fiat Chrysler, perché rappresenta l'inizio della nuova strategia di rilancio del marchio Alfa Romeo. Marchionne non ha mai nascosto, già lo disse l'anno scorso da Trento, che il suo obiettivo è portare l'Alfa Romeo a essere direttamente in concorrenza con tutti i modelli BMW e anche Audi, ma in primo luogo citava la BMW. 8 nuovi modelli entro il 2018 e investimenti per 5 miliardi. Ne parleremo adesso, però, rapidamente. Le altre notizie in breve. Ancora un dato sul nostro export. A maggio del 2015 sono aumentate le esportazioni fuori dall'Unione Europea, extra UE, più 0,4% rispetto ad aprile, e sono calate le importazioni, sempre extra Unione Europea, con un saldo positivo per la bilancia commerciale italiana per 2 miliardi e 800 milioni di euro, e questo nonostante continuino a pesare, come abbiamo più volte ricordato, le sanzioni alla Russia, che hanno causato verso la Russia un crollo dell'export del 30% rispetto al maggio del 2014. Però, nonostante questa zavorra, che va a colpire in particolar modo l'Italia rispetto ad altri paesi, sicuramente non ne sono colpiti gli Stati Uniti, non come in percentuale come invece pesa sull'Italia, ma dicevo, bene le vendite verso i paesi OPEC, produttori di petrolio più 3%, Giappone più 9%, Turchia più 9%, Stati Uniti stabili più 1%, in leggero calo la Cina meno 1%. Allora, vedo che alcuni scrivono sui protesti, calano anche i fallimenti, mancano le aziende, ormai chi è morto aziendalmente è già morto, e alcuni mi citano il caso del, ahimè, del suicidio dell'imprenditore maschio di Padova. Attenzione, stiamo cercando di capire che cosa abbia portato a una scelta così tragica. Chi vi parla, insomma, ricorderete quando lanciamo l'iniziativa Disperati Mai, proprio, ahimè, in tema di suicidi dovuti alle difficoltà di impresa. Però occorre essere molto cauti, ancora da quello che vediamo le cause non sono chiarissime in questa tragicissima vicenda. Allora, la Grecia, ascoltiamo cosa ho detto oggi. Vorrei far ascoltare alcuni passaggi dell'intervento al Senato del Presidente del Consiglio, anche perché questo ci porta poi direttamente al primo tema, le motivazioni, o meglio, la decisione pubblicata e comunicata oggi della Corte Costituzionale. Anzi, facciamo una cosa, sulla Grecia lo ascolteremo dopo, quando parleremo di Grecia. Adesso sentiamo un passaggio del Presidente del Consiglio sul fatto, è tornato sul tema delle opere pubbliche bloccate, che valgono l'1% del PIL, serve un maggiore sforzo. Ovviamente per me questo non è sufficiente, è necessario ma non sufficiente, perché I segni di ripresa economica che sono innegabili e indubitabili sono ancora, a nostro giudizio, timidi. C'è ancora molto da fare, sia in termini di sblocco delle infrastrutture e dei cantieri, ma il punto chiave è che se oggi l'Italia è nelle condizioni di non essere più nella parte sul banco degli imputati o sul banco degli studenti da verificare, questo si deve non già a fenomeni magici provenienti dall'esterno, ma dall'attività parlamentare, perché il vero fondo salva stati dell'Italia in questo anno è stata la capacità di fare le riforme strutturali. Poi sempre il Presidente del Consiglio è tornato sul Consiglio dei Ministri di ieri, che ha dato il via libera ad alcune norme per favorire il recupero dei crediti da parte delle banche e alleggerire quello che è un fardello pesantissimo, inutile girarci attorno, sulle banche, ormai le sofferenze, cioè i crediti del mondo bancario che le banche non rivedranno più, prestiti che non torneranno più indietro, il livello complessivo sta sfiorando i 200 miliardi di euro. Si è deciso che le banche potranno dedurre le perdite sui crediti in un solo anno invece che in 5. Tra l'altro oggi trovate proprio in apertura su Sole 24 Ore e poi due pagine interne di analisi su questo, e la deducibilità ai finire se IRAP in un anno invece che in 5 dei crediti svalutati. Questo è chiaramente un vantaggio per le banche, che possono pagare meno tasse in un anno, tutto in un anno, non su 5 anni. Padoan, il ministro dell'economia, sulla bad bank, sull'ipotesi di arrivare a una banca dove far confluire tutte le sofferenze bancarie, ha frenato. Le misure varate oggi sono già potenti, questo insomma dovrebbero riuscire, ha detto Padoan, a mettere in moto un mercato secondario dei crediti in sofferenza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che poi ci sono delle società che rilevano pagandoli a sconto i crediti che le banche hanno in sofferenza e poi tentano di riaverli loro e guadagnano su questa differenza. Però Renzi ha anche citato il rinvio della riforma del catasto. È stata rimandata sia la delega fiscale con la riforma della riscossione che appunto la riforma del catasto. Sentiamo questo passaggio del Presidente del Consiglio in conferenza stampa. Abbiamo scelto di non intervenire sul catasto, non perché non sia un buon lavoro quello fatto, ma perché nelle more dell'approvazione della local tax ogni tipo di intervento potrebbe sembrare come un intervento di aumento delle tasse, anche se il testo prevedeva una invarianza di gettito. Quindi abbiamo le norme che sono pronte anche a essere discusse, ma non le terremo dentro la delega. Eventualmente le verificheremo in un secondo momento, laddove sarà possibile, dopo l'approvazione della tassa locale. E già ieri abbiamo fatto notare che secondo appunto l'algoritmo si sarebbe avuto un effetto boomerang su tutte le, dal punto di vista politico, ripeto, la revisione del catasto è sacrosanta e legittima, doverosa. Non torniamo sul tema di ieri, ci sono case di grande pregio a livello di mercato che valgono pochissimo per il catasto, principalmente sono quelle nei centri storici che negli ultimi 20 anni hanno avuto una grossissima rivalutazione e pagano meno di case che hanno un valore decisamente inferiore a livello di mercato, ma hanno la, tra virgolette, sfortuna di essere nuove e in zone magari periferiche, sicuramente non centrali, ma di avere un più alto valore catastale. Ecco, questa differenza va ridotta. Il problema è politico, il governo teme che se poi tutta la revisione porterà di fatto dà la sensazione di un aumento della pressione fiscale sulla casa, questo sia un boomerang di carattere elettorale e politico, diciamola tutta. Allora, l'ultima notizia riguarda i dati diffusi oggi dal Ministero del Lavoro sui nuovi contratti di lavoro attivati a maggio al netto delle cessazioni. Attenzione, perché anche qui i nuovi contratti di lavoro sono 178.000. In totale il numero di contratti è aumentato di 42.000 unità. il numero complessivo dei nuovi contratti di lavoro, quindi 170.000 è la differenza con le cessazioni, o quelli attivati sono stati 780.000, di cui 156.000 a tempo indeterminato e 518.000 a tempo determinato. Poi ci sono 19.000 contratti di apprendistato, 33.000 collaborazioni, 54.000 forme di lavoro classificate nella voce altro. Ogni volta lo ripetiamo, attenzione che questo non è il dato, l'unico dato che prendiamo come definitivo è quello dell'Istat, perché non sappiamo quanti di questi contratti fossero già persone che lavoravano e a cui viene fatto un nuovo tipo di contratto, vengono, pensate, alle partite IVA messe a contratto, quindi non è un dato che può servire per capire come sta andando l'occupazione da un lato e la disoccupazione dall'altro, ma è un dato su cui si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore. Oggi la firma è del vice direttore Alberto Orioli, vi ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Circa 42.000 contratti di lavoro in più da maggio a maggio, non tantissimi, ma comunque è la conferma di una tendenza tutt'altro però che consolidata, anche perché aprile era andato meglio. Stiamo parlando dei dati diffusi dal Ministero del Lavoro, cioè quelli che non tengono conto però del lavoro domestico e delle pubbliche amministrazioni. A maggio i nuovi contratti di lavoro sono stati 780.000 contro i 738.000 dello stesso mese del 2014. Dei nuovi contratti, poco più di 153.000 sono a tempo indeterminato. Erano 108.000 nel maggio 2014. Il grosso dunque è ancora a tempo determinato, oltre 518.000, 10.000 in più di un anno fa. Sempre a maggio sono state quasi 30.000 le trasformazioni di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, anche questa è cresciuta di circa 10.000 unità. La sostanza, al di là della girandola di numeri, è questa: gli incentivi fiscali e le nuove regole semplificate del Jobs Act fanno salire i contratti a tempo indeterminato a dispetto dei rapporti di lavoro a tempo precari e delle collaborazioni, che crollano vistosamente tra l'altro. Una foto di quelle che diffonde quotidianamente il portavoce di Renzi, Filippo Sensi, ritraeva ieri il premier intento a stringere la mano agli archeologi, testuale, assunti al Museo Egizio di Torino grazie al Jobs Act. Magari la didascalia sa un po' di propaganda, ma le nuove regole del lavoro stanno davvero cambiando le cose. Lo annunciano anche i consulenti del lavoro, che si aspettano entro l'anno 1,5 milioni di nuovi contratti stabili a tutele crescenti. Ma aggiungono, sempre i consulenti del lavoro, che solo il 13% sarà occupazione aggiuntiva. Per creare occupazione aggiuntiva, in effetti, serve un contesto davvero favorevole agli investimenti, che ancora evidentemente non c'è. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Primo tema, allora, insomma, chiaro che poteva andare peggio visto com'è andata con il blocco dell'indicizzazione delle pensioni, però se la Corte Costituzionale ha stabilito che la sua decisione non è retroattiva, quindi non vale per gli anni passati, ha allo stesso tempo definito illegittimo il blocco dei contratti e degli stipendi, soprattutto della pubblica amministrazione. Tra l'altro noi abbiamo fatto un calcolo, appunto, che il blocco per un dipendente pubblico, lo stipendio medio di 22.000 euro lordi l'anno, il blocco rappresentava una perdita di circa 2.000-2.200 euro lordi all'anno in media, e quindi ha detto la Corte Costituzionale dal 2016 il blocco non potrà più essere applicato, quindi il governo evita di dover trovare 35 miliardi di euro, perché tanto sarebbe costato l'effetto retroattivo della sentenza della Consulta riferito al 2012-2013-2014, ma deve trovarne, se ho ben capito, 1,7 miliardi per l'anno prossimo. Dino Pesola del Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera, eccomi. Sì, allora, è la cifra. La domanda è facilissima, ma qui il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto per il governo Renzi? Beh, allora, certamente la notizia che non ci sono effetti retroattivi è sicuramente tranquillizzante, perché l'effetto sui conti pubblici sarebbe stato enorme. D'altro canto, adesso si apre una nuova fase, nel senso che le simulazioni che lo stesso governo ha inserito nel documento di economia e finanza parlano appunto di uno stanziamento potenziale, noi diciamo di 1,7 miliardi a partire dal 2016, che poi ha un effetto cumulato nel 2016-2018 di 6,6 miliardi, questi sono i dati contenuti nel documento programmatico del governo, però evidentemente qui adesso si apre una fase di contrattazione, perché, come dire, questa è la cifra potenziale che dovrebbe essere stanziata dal 2016 qualora il governo decidesse di dare corso al rinnovo della contrattazione, che però, come sappiamo, è oggetto di trattativa tra le parti. Quindi, ad esempio, il governo potrebbe pure, come ha fatto peraltro col dispositivo del decreto sulle pensioni, decidere di corrispondere una parte, quindi di lazionare. Insomma, capire, Dino, però il governo, allora, la Corte dice attenzione, non lo puoi fare questo blocco nel 2016. Esatto. Due domande. La prima, questo vuol dire che adesso come adesso la legge di stabilità dovrà contenere a livello almeno prudenziale 1,7 miliardi di euro per lo sblocco dei contratti del pubblico impiego, oppure potrebbe non metterli in legge di stabilità e a quel punto dire vabbè, poi inizieremo a trattare con i sindacati e vediamo, perché faccio un esempio, se questo scatto tu lo applichi a metà del 2016 è chiaro che ti costa meno, cioè deve metterlo in finanziaria, che è un problema, oppure no? Sì, lo deve appostare in finanziaria, perché adesso non c'è più, è caduto il blocco, e quindi deve mettere comunque un appostamento nella legge di bilancio, okay, in cui si preveda qual è il costo laddove l'esito della trattativa con le parti sociali dia luogo alla riapertura tout court della contrattazione, quindi degli aumenti contrattuali. Preciso però che c'è anche un effetto ancora non calcolabile, peraltro pure sull'anno in corso, perché se tu guardi il dispositivo della sentenza, lì c'è scritto che avrà effetto a partire dalla sua pubblicazione, quindi si può immaginare che la pubblicazione avvenga a luglio, e dunque ci sarà anche un effetto, ancorché limitato agli ultimi 5 mesi dell'anno, anche sull'anno in corso. Quindi insomma, qui bisogna rifare un attimo i conti, e credo che l'assestamento di bilancio che verrà presentato tra breve dovrebbe contenerlo. Peraltro ricordo che non è l'unica partita cui il governo deve far fronte per effetto delle sentenze della Corte, perché dal 2016, sto facendo adesso due calcoli, oltre a questa nuova nuovo stanziamento a cui bisogna far fronte, ci sono 700 milioni dal 2016, perché la Corte Costituzionale, molti l'hanno dimenticato, ma a febbraio ha dichiarato incostituzionale anche la cosiddetta Robin Tax, che era quella tassa sulle compagnie petrolifere che era stata istituita dal governo Berlusconi, dall'allora ministro Tremonti. E poi ci sono i 500 milioni che dal prossimo anno servono per l'adeguamento al regime, questo è il meccanismo individuato dal decreto, per la rivalutazione delle pensioni bloccate. E quindi qua, fatti due calcoli, siamo già a 3 miliardi ed è solo il costo, chiamiamolo così, delle tre sentenze. Delle tre sentenze, certo. Quindi, e poi ci sarà molto altro. Quindi insomma, diciamo che tutto fa pensare che la prossima legge di stabilità sia alquanto impegnativa. Sì, se pensi che 2 mesi fa stavamo ragionando del tesoretto. Lo dicemmo in maniera così molto pacata, attenzione, parlare di tesoretto in questo paese porta sfiga, perché tutti i governi che l'hanno fatto hanno poi beccato un boomerang di altro genere, però è un dato di fatto. In effetti dal tesoretto siamo passati al dover reperire, solo come frutto delle sentenze, 3 miliardi in più di euro, che non è pochissimo. Grazie Dino Pesole per averci chiarito. Grazie intanto che il governo deve metterlo e postarlo, come si dice in gergo, in legge di stabilità, poi vedremo che tipo di accordo prenderà con i sindacati, quanto ottenere, quando farlo partire, ma intanto devi metterlo, perché a questo punto la stessa Consulta ti dice non puoi più tenere il blocco, e quindi intanto li metti in cascina e poi vediamo se ti serviranno. Grazie Dino Pesole, meteo e pubblicità. Focus Economia. We'll be right back. Allora, prima di arrivare alla borsa, che ha chiuso con un meno 0,53% su Milano, meno 0,20% su Parigi, meno 0,60% su Francoforte, restiamo in tema di imprese, di conti dello Stato, ma in questo caso per una buona notizia. Oddio, la sentenza della Consulta è comunque una buona notizia per i 3 milioni di dipendenti pubblici, per cui da quel punto di vista è una buona notizia, meno buona, come abbiamo appena spiegato, per il governo alle prese con la legge di stabilità, come adesso si chiama la legge finanziaria. Dicevo, la buona notizia invece riguarda il netto miglioramento nei primi 3 mesi dell'anno per i tempi di pagamento delle imprese e anche sui protesti. Allora, il CERVED ha analizzato i dati e sono circa 15.000 le società protestate tra gennaio e marzo di quest'anno. Voi direte una cifra alta, 5.000 al mese. In realtà l'anno scorso erano molto più alte e quest'anno sono, nei primi 3 mesi sono comunque il 18% in meno. Tra l'altro la cifra di 15.000 si avvicina moltissimo a quella pre-crisi, perché bisogna guardarle anche in maniera storica questi dati. Nel 2007 i casi erano 14.800, quindi siamo lì. Riduzione anche dei tempi di liquidazione delle fatture, in media 76 giorni e mezzo contro i 77 e mezzo di un anno fa, dei primi 3 mesi del 2014. Anche qui uno potrebbe dire, beh, un giorno cosa vuoi che sia, però insomma è sempre un giorno in meno ed è sempre una media, per cui in alcuni casi il dato sarà ben più positivo, in altri ancora negativo. E i ritardi scesi da 18 giorni e mezzo a 17 giorni. Parliamone, perché molti ascoltatori dicono questo è il risultato del fatto che ormai chi doveva perire è già perito, ma non so se sia esattamente così. Grazie a Guido Romano, responsabile degli studi economici del CERVED. Buonasera, dottor Romano. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, fughiamo subito il dubbio. C'è un effetto esaurimento, nel senso che, lo dico in maniera un po' brutale, chi doveva finire in protesto c'è già finito negli anni scorsi, quindi adesso si asciuga il numero dei protesti, oppure il dato è nettamente positivo, cioè al netto anche di questa analisi? Beh, il dato è sicuramente positivo, anche perché prosegue una tendenza da alcuni trimestri. Sicuramente, diciamo, c'è stato un effetto selezione, cioè 7 anni di crisi hanno fatto uscire dal mercato soprattutto imprese che erano già fragili nel 2007 e quindi ha fatto uscire molti cattivi pagatori. Questo però si unisce al rafforzamento delle condizioni economico-finanziarie delle imprese che sono rimaste e si unisce anche a un diverso comportamento da parte delle imprese, cioè le imprese dopo la crisi si comportano sempre più come le banche e hanno molta più attenzione nel concedere credito commerciale alle loro controparti. E quindi diciamo le imprese più rischiose da una parte sono viste ridurre il credito bancario ma anche quello commerciale e questo diciamo ha accelerato un processo di selezione, però questo significa anche che adesso il sistema funziona meglio. Sì, allora da un lato ahimè c'è stata quella che lei ha chiamato selezione che è stata pesantissima, dall'altro c'è anche un maggior rigore nel mondo bancario. Alcuni ascoltatori ci scrivono che le banche hanno allentato leggermente i cordoni, ce lo scrive adesso un imprenditore. Ogni caso è un caso a sé, è un po' come gli amori infelici di Tolstoi, no? Ogni storia infelice è infelice a modo suo, Anna Karenina se non ricordo male, e quindi ogni caso di rapporto con la banca è un caso a modo suo. Detto questo, noi guardiamo il dato complessivo e notiamo che pur a fronte di una selezione che c'è già stata c'è comunque un miglioramento nei protesti. A me interessa ancora di più la diminuzione dei tempi di pagamento. Quella che cosa è dovuta dalla vostra analisi? Lì diciamo il merito è delle microimprese e delle piccole e medie aziende, perché queste aziende hanno avuto scadenze in fattura più rigide, però sono riuscite a ridurre i ritardi. D'altra parte le grandi imprese hanno sfruttato il loro potere negoziale ottenendo condizioni in fattura più sa che più i fornitori ampie. Dicono potere ricattatorio più che negoziale, però sì, diciamo la possibilità di ordinare grandi quantità eccetera sicuramente aiuta ad avere condizioni migliori in fattura. D'altra parte questo ha delle conseguenze sulla gestione della liquidità delle imprese importanti, perché di fatto è un modo in cui le aziende devono finanziare più liquidità, nel caso delle piccole o delle micro possono finanziarne meno. Nulla avete detto invece sui tempi di pagamento della pubblica amministrazione, ma lì qualche dato c'è, perché è un tema qualcosa abbiamo detto. Ecco, perché allora mi è sfuggito, infatti stavo cercando, eccolo qua, sullo stock di fatture commerciali non pagate da parte della pubblica amministrazione, si è ridotto e di quanto? Sì, si è ridotto, era al 66% nel primo trimestre del 2013, quindi prima degli interventi, adesso rimane ancora alto, però è sotto il 50%, quindi la tendenza è assolutamente positiva. Quello che rileviamo però è un livello alto dei mancati pagamenti sulle fatture di nuova emissione. Questo è un fenomeno, diciamo, che rallenta l'esaurimento. Se ho ben capito, l'arretrato si continua a ridurre, è sceso dal 66 al 50%. Il problema è che il lupo perde il pelo ma non in vizio. Nei nuovi contratti di nuovo ripartono i ritardi? Esattamente. Da parte della pubblica amministrazione? Sì. Sì, diciamo, è alta la quota di nuove fatture che la pubblica amministrazione non salda. No, il problema è che in questo modo, se capisco bene, poi tornerà a aumentare anche lo stock, perché cioè, tu lo stock lo elimini se tu da ora in avanti o da un anno fa in avanti paghi nei tempi corretti. Rallenta la riduzione dello stock. Sì, assolutamente. Ci sono sempre quelli che fanno i furbi della pubblica amministrazione, soprattutto nella parte sanitaria. Guarda che molti di questi ritardi sono di pertinenza delle ASL, della gestione sanitaria. Comunque, il dato complessivamente, con tutti i se, i ma e i caveat che abbiamo messo, è positivo. Grazie intanto a Guido Romano, responsabile studi economici del CERVED. No, chiedo una cosa, ma perché se citiamo una cosa positiva, pur con tutti gli elementi di contorno, i sei ma che abbiamo messo, c'è sempre qualcuno che si sveglia e scrive: ma cosa volete parare o tirare la volata a Renzi? Ma non è che se c'è una cosa positiva è solo merito di Renzi, se c'è una cosa negativa è solo del merito di Renzi. Usciamo da questo gioco pro contro i Guelfi o pro contro i Ghibellini. È un dato che è complessivamente positivo, pur con tutto quello che è costato appunto la selezione a cui faceva riferimento il responsabile del CERVED, che è comunque positivo per le imprese, per chi ha un credito nei confronti della pubblica amministrazione. Che poi questo stock si stia rallentando perché continuano a fare i furbi gli amministratori pubblici quando c'è da pagare i nuovi contratti, le nuove fatture, l'abbiamo appena detto. Comunque, su questo e sul tema delle imprese, restiamo sulle imprese bancarie. Si diceva prima delle sofferenze delle banche che ormai arrivano a 200 miliardi di euro. Dopo il traffico ascoltiamo anche alcuni passaggi di quanto deciso ieri dal governo a vantaggio del mondo bancario, nel senso soprattutto sulla deducibilità delle perdite che possono essere dedotte in un anno dal pagamento di IRES e IRAP e non si devono più spalmare su 5 anni dopo il traffico. Focus Economia. Allora, le banche, il credito, l'unica misura vera varata ieri dal Consiglio dei Ministri, che appunto ha lasciato stare sul catasto per paura di un boomerang politico, è quella che riguarda, dicevo, da un lato, e come oggi trovate ben spiegato in due pagine del Sole 24 Ore, da un lato la deducibilità delle perdite che possono essere dedotte a fini IRAP e IRES in un solo anno e non più in 5 anni come previsto in precedenza, il recupero dei crediti, la semplificazione delle procedure per recuperare le garanzie sui prestiti ormai inesigibili, gli accordi sul debito e quindi introdotta una nuova procedura di ristrutturazione dei debiti con le banche, si applica se l'esposizione verso la banca o le banche da parte dell'imprenditore è pari ad almeno il 50% del totale. E poi la figura del curatore fallimentare, che viene distinta da quella del commissario giudiziale, e sono rese incompatibili le due figure, e deve essere in grado di completare i propri adempimenti entro i termini, pena la revoca. In questo modo si dovrebbe garantire la terzietà, cioè l'essere super partes da parte del commissario, e si riducono i tempi delle procedure di fallimento. Queste misure, soprattutto la deducibilità delle perdite a un anno e non più spalmate su 5 anni, Secondo il ministro Padoan, intanto hanno un costo zero per lo Stato e potrebbero portare qualche beneficio, ma in qualche modo sono già sufficienti rispetto all'ipotesi di una bad bank. Ascoltiamo ossia di una banca dove far confluire tutti i crediti inesigibili. Ascoltiamo questo doppio passaggio del ministro Padoan, sia sulla misura della deducibilità, sia sul fatto che la bad bank non tramonta, ma insomma le misure di oggi dovrebbero o potrebbero bastare, secondo il ministro. C'è un'altra misura che è stata approvata, che riguarda la deducibilità delle perdite ai fini IRES e IRAP delle svalutazioni crediti, che fino ad oggi poteva essere le banche che avevano questi crediti potevano beneficiarne in 5 anni, addirittura prima ne potevano beneficiare in 18, e questo naturalmente costituiva un congelamento di un possibile capitale disponibile delle banche. D'ora in poi i nuovi diritti accesi da queste svalutazioni dei crediti possono essere goduti, per così dire, nell'anno in cui emergono, e questo accelera notevolmente l'aggiustamento dei bilanci delle banche e permette quindi alle banche di dedicare più capitale al credito, e di nuovo questo è un meccanismo che, come è successo in altri paesi, si sa che facilita la ripresa del credito. Aggiungo e finisco che quest'ultima misura avviene a costo zero per il bilancio pubblico, anzi può darsi, stiamo facendo le simulazioni, potrebbe portare anche dei piccoli benefici al bilancio. Possiamo anche avere quell'altro strumento di cui lei parlava, compatibilmente con la disciplina degli aiuti di Stato governata dalla Commissione, sarà uno strumento in più, però vorrei subito dire che le misure che abbiamo varato oggi sono già, a nostro avviso, estremamente potenti ed efficaci per mettere in moto un mercato secondario dei crediti in sofferenza che sarà molto utile per il rilancio dell'economia. Adesso la borsa, oggi la giornata rischiava di buttare male, nel senso che a metà giornata, quando Tsipras ha twittato un messaggio, alcuni creditori non vogliono firmare l'accordo, facendo capire che era il Fondo Monetario ad aver puntato i piedi, Atene ha preso a perdere più del 4%, ma anche Milano calava più dell'1%, 1,3% a un certo momento. Poi tutto si è un po' ricondotto, alle 19 inizia il supervertice dell'Eurogruppo, stante modifiche, al netto delle modifiche, scusatemi. La borsa di Milano ha perso lo 0,50%, Parigi meno 0,20%, Francoforte meno 0,60%, Londra più 0,15%, l'America in questo momento perde lo 0,33%, euro a quota 1,11, anche lo spread, che aveva avuto una piccola fiammata, si è ricondotto, era arrivato a 140, adesso vado a memoria, è leggermente ridisceso. Come sempre il commento con i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, perché poi al di là del calo dell'indice di mezzo punto ci sono notizie su alcuni titoli. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Allora, al di là della mossa greca e della reazione alla greca e poi la controreazione, IUX meno 3,76%. Sì, meno 3,76%, però va detto che da fine marzo ai giorni scorsi le azioni hanno corso di oltre il 50%. Mm-hmm. Ricordiamo che a fine marzo è stata annunciata la fusione tra IUX e Net-a-Porter del gruppo svizzero Richemont. È un'operazione molto importante per la società, visto che aumenterà la visibilità a livello internazionale, porterà numerosi visitatori e si spera compratori all'interno del sito internet. Insomma, sono semplicemente piovuti un po' di realizzi dopo la brillante performance registrata negli ultimi mesi. E questo per quello che riguarda IUX. Invece sul fronte delle banche, al di là della vicenda greca, oggi un po' deboli le popolari, a parte UbiBank che guadagna lo 0,50%, la Pop Milano lo perde uno 0,50%, Pop Emilia Romagna meno 0,20%, Monte dei Paschi meno 2%, e poi UniCredit meno 1,20%, che non c'entra chiaramente col mondo delle popolari. Chiudo con sostanzialmente Intesa San Paolo, che se ho ben visto, adesso me la sono persa, eccola qua, meno 0,80%, Eleonora. Ma sì, oggi è andato male un po' tutto il settore bancario, come hai detto tu, anche sul rialzo dello spread, ovviamente innescato dai timori per la Grecia. Detto questo, le popolari sono rimaste deboli, ma come dicono numerosi analisti, per riallacciarmi al discorso che hai fatto tu prima relativamente al decreto del Consiglio dei Ministri, sono appunto proprio le popolari o comunque le banche di taglio più piccolo a beneficiare maggiormente del decreto. Conseguentemente si può dire che sono andate male, ma meno male rispetto alle grandi banche, cioè la performance è migliore, anzi fino a metà giornata c'erano alcuni istituti che comunque andavano su, come ad esempio anche la BPM, che alla fine poi ha perso lo 0,5%, ma fino a metà giornata era positiva, o comunque la BPER, che ha lasciato sul parterre solo lo 0,18%. In questi giorni infatti circolano numerosi studi molto interessanti dove si fanno tutta una serie di ipotesi proprio sui benefici e sull'impatto che avrà questa nuova normativa appena varata dal governo Renzi. Sì, ancora vedo dei messaggi sul tema di quello che ha deciso il governo sulle sofferenze bancarie spalmabili non più su 5 anni ma deducibili nell'anno, in un anno solo. Chiede un ascoltatore, ma come fa a essere a costo zero per lo Stato? Beh, immagino che il ragionamento del ministro Padoan sia: tanto se tu dovevi sparmarne 5 anni me la mettevi come posta per i 5 anni, adesso me la metti come posta in un anno solo, ma dal punto di vista della tenuta dei conti pubblici nel medio termine cambia nulla. Così la capisco io. Resta con noi Eleonora Micheli, perché citavo chi più ha perso, ma Azimut invece ha guadagnato di nuovo l'1,40%, Saipem l'1,40 anch'essa, Tenaris più 0,70, Campari mezzo punto percentuale come Ubibanca e Mediaset, Eni più 0,20 percento. Parliamo anche di questi titoli e poi di Telecom Italia. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. I prossimi temi saranno anche il rilancio dell'Alfa Romeo e chiaramente lo stallo nuovo sulla Grecia. Se ti piace il Gastronauta e ti piace anche il panettone, non perderti la possibilità di vivere da vicino la diretta del mio programma domenica 28 giugno a mezzogiorno. Saremo proprio qui, nell'auditorium del gruppo 24 ore, durante la 2 giorni dedicata al panettone tutto l'anno e ci divertiremo a festeggiare insieme l'arrivo dell'estate con il dolce simbolo di Milano. Prenota il tuo posto sul sito radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus Economia. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa con Eleonora Micheli di Radio Coro, il Sole 24 Ore. Eleonora, bene oggi Azimut, dicevamo più nel 40%, e poi c'è la vicina Telecom, non tanto sul fronte borsistico, anche se il titolo ha perso l'1%, quanto perché Vivendi è entrata in possesso della quota a questo punto. Prego. Sì, esatto. Per quanto riguarda Azimut, è già da qualche seduta che i titoli vanno bene. Evidentemente il mercato apprezza la strategia dell'azienda, che è anche di espandersi all'estero. Morale della favola: dal 19 giugno, quindi nel giro veramente di poche sedute, i titoli hanno guadagnato quasi il 9%. Per quanto riguarda Telecom Italia, si sta aspettando da un momento all'altro l'ufficializzazione dell'ingresso di Vivendi nel capitale di Telecom Italia con una quota di poco superiore all'8%, però secondo indiscrezioni il gruppo francese potrebbe di fatto aver già arrotondato la quota o potrebbe aver acquistato negli ultimi giorni azioni sul mercato fino a spingersi attorno al 15%. Fatto sta che proprio oggi l'AD di Mediobanca, Alberto Nagel, ha dichiarato che comunque Mediobanca non cederà l'1,6% il pacchetto che ancora detiene in Telecom Italia direttamente a Vivendi, ma evidentemente lo cederà sul mercato, visto che già da mesi peraltro Mediobanca ha detto che venderà i titoli. Forse anche per questo i titoli poi alla fine si sono indeboliti, perdendo, come hai detto tu, l'1%. E questo per quello che riguarda Telecom. Fiat, di cui parleremo fra poco, oggi il gruppo Fiat Chrysler, di cui parleremo per la parte che riguarda Alfa Romeo, perde lo 0,50% in borsa. Tra i migliori e peggiori invece Hi-Rail più 14,70%, Modelleria Brambilla più 12,70%, Industria e Innovazione più 8,80%, First Capital più 6,70%, Fronte Opposto invece per Edes meno 19,7%, EMS meno 15%, Carige meno 5,40%, BE meno 5%. Grazie, onore Michele, Radio Cori, Sole 24 Ore. Dicevamo di Fiat, che appunto oggi, in questa giornata, lancia in grande stile, va detto, il marchio, rilancia il marchio Alfa Romeo. Non è che il marchio si sia mai spento, esaurito, ma inizia con oggi, se abbiamo ben capito, una strategia già anticipata un anno fa da Sergio Marchionne, che oggi appunto diventa concreta, per far concorrere il marchio Alfa Romeo direttamente su marchi della fascia alta, e mi riferisco a BMW ma anche ad Audi. Quattro anni di lavoro per presentare, come è avvenuto poco fa nel Museo Storico, che ha riaperto tra l'altro dopo quattro anni di lavoro ad Arese, la nuova Giulia, che sarà l'erede della 159, ma soprattutto dire che l'erede della 159 è forse un po' limitativo, si inserisce nella strategia complessiva, come ricordavo, del rilancio del marchio Alfa Romeo. 8 nuovi modelli entro il 2018, investimenti per 5 miliardi. C'è ad Arese il nostro inviato Enrico Pagliarini. Enrico, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Alziamo leggermente il livello di Pagliarini. Senti, si è appena conclusa la presentazione. L'obiettivo, se ho ben capito, è andare in concorrenza diretta con marchi quali BMW e Audi. Esattamente, esattamente. Allora, sono tre le cose che sono state di fatto presentate oggi per questa rinascita del marchio e del brand Alfa Romeo. Naturalmente l'automobile, la Giulia, che è la prima auto di una serie, saranno 8 in totale nei prossimi anni, 5 miliardi di investimento, ribadito Marchionne. Poi è stato presentato il rinato museo dell'Alfa Romeo e anche un nuovo marchio. Devo dire che il marchio è sostanzialmente molto simile a quello precedente, però questa è l'altra novità che è stata presentata oggi. Molto è insistito sulla rinascita del DNA, dei valori dell'Alfa Romeo, quindi su questo sta puntando Fiat Chrysler. Marchionne, che ha parlato proprio pochi minuti fa, sto cercando di uscire, c'è una folla, ci sono più di 300 giornalisti accrediti a questo evento, che è stato veramente molto seguito dalla stampa internazionale. Marchionne, dicevo, ha insistito molto sui valori dell'Alfa Romeo, ha parlato molto della storia dell'Alfa Romeo, e quindi da qui si riparte per rilanciare un marchio che ha detto non avere eguali al mondo, e ha citato solamente la Ferrari. Oltre alla Ferrari non esiste altro brand, altro marchio al mondo che è riconoscibile come un unicum, guardando appunto anche alla storia, ai valori, alle vittorie dell'Alfa Romeo. Allora, in effetti, da questo punto di vista, noi italiani abbiamo ognuno ha quella che vuole, ma abbiamo una certa percezione del marchio Alfa Romeo. Va fatto notare come nel mondo anglosassone, in primo luogo, ma non solo, anche in Germania e in Francia e in Cina, il marchio Alfa Romeo venga visto come un marchio estremamente sportivo di auto, lo dico per esperienza, ed è quello a cui punta poi il gruppo Fiat Chrysler, cioè utilizzare la forza, il ricordo, la memoria che c'è di questo marchio. Vi si associano chiaramente i modelli più famosi, a partire dall'Alfa Spider, ma non solo, il duetto, per cui viene visto come un marchio. Un ascoltatore mi ha corretto, mi dica non dica Audi, dica semmai in concorrenza con Mercedes e BMW, va bene, però diciamo la Giulia, tra l'altro, che caratteristiche ha, se ve le hanno già fornite, la nuova allora Giulia? Non sono state fornite durante la conferenza stampa, ma il press kit con tutti i dettagli è disponibile proprio adesso all'uscita. Stiamo uscendo, almeno io sono uscito proprio in questo momento, quindi stiamo andando. Perché... Allora, si tratta comunque di un'automobile con tutte le caratteristiche al top nella gamma premium, quindi sicuramente, beh, io ci metterei effettivamente anche Audi, perché soprattutto nella parte di, sportiva di Audi, sicuramente lì si andrà a fare concorrenza. Sì, comunque hai detto bene, la sportività e tutti i valori legati alla sportività della, dell'Alfa Romeo sono i valori su cui si punta, la guidabilità, sui mercati esteri, della... sì sicuramente questo, beh, non è un caso che la versione che è stata mostrata al termine della presentazione sia una quadrifoglio verde, che è l'espressione massima della sportività, cioè quella che ha 6 valvole, 500 cavalli. Sì, dovrebbe, una bomba. Sì, poi sulle caratteristiche, sì una bomba sicuramente tecnologica. No, ma anche come potenza, però poi c'è anche uno in autostrada, c'ha al Tutor, per cui attenzione, non dappertutto, però 6 valvole e 500 cavalli per la nuova Giulia. Ti ho interrotto, Enrico, scusa. Sì, no, dicevo, non è un caso che sia stata presentata questa, che è proprio l'espressione massima, e si sia puntato molto su le tecnologie che hanno distinto Alfa Romeo fino ad oggi, ad esempio il DNA, che è un selettore che serve per cambiare la dinamica e anche la potenza dell'autoveicolo mentre si guida. Sono state accennate alcune caratteristiche tecniche, ma non si è andato nei dettagli, tant'è che gli ingegneri dell'Alfa Romeo hanno proprio detto: non parleremo molto di tecnologia, ma parleremo molto di valori, di sportività dell'Alfa Romeo, perché è da qui che noi vogliamo ripartire, su questo che vogliamo insistere. Poi sui dettagli tecnici ci potremmo sbizzarrire, ma insomma, stiamo parlando di che anche noi abbiamo capito, ci sarà, oltre alla versione bomba, così l'abbiamo chiamata, da 6 valvole 500 cavalli, anche la 2 litri turbo e benzina con potenza da 180, 250 e 330 cavalli. Ci sarà anche un diesel 2002 derivato da quello della Jeep Cherokee, quindi con potenza da 180 e 210 cavalli, e poi tutto quello che si chiama in gergo il portfolio completo di modelli che arriveranno entro il 2018 con motori da 4 e 6 cilindri da 150 a 500 cavalli. Già un primo lancio, perché parliamo di inversione di rotta, ma era arrivato con la 4C nel 2013, che erano due posti con motore posteriore, però prodotte in una piccola numero nelle versioni coupé e Spider. Confermato l'obiettivo, comunque, al di là della Giulia oggi presentata, di 8 modelli tra berline di alta fascia, coupé sportive e 2 SUV da qui al 2018? Marchionne ha fatto riferimento ai 5 miliardi di investimento e ad altri 7, quindi in totale fanno 8 modelli da qui al 2018. Marchionne ha citato un dato che è abbastanza triste per l'ultimo anno di Alfa Romeo, 68.000 veicoli venduti, e Marchionne ha ribadito che non ha senso per un marchio come Alfa Romeo vendere così poche macchine, e da qui si riparte per arrivare a obiettivi che sono stati citati altre volte, 400.000 veicoli da qui al 2018. Per quanto riguarda lo stabilimento di produzione, qui poi tocchiamo anche tutte le dinamiche relative al lavoro, alla fine speriamo della cassa integrazione. Cassino sarà lo stabilimento che verrà utilizzato per la produzione di questa automobile, che dovrebbe uscire sul mercato a partire dall'Europa dal prossimo anno. Naturalmente su questo non c'è ancora una conferma, ma si parla di febbraio-marzo, e poi dovrebbe arrivare sul mercato americano. Sul mercato americano si punta moltissimo. Non so se l'arrivo di Bocelli, che ha cantato durante la presentazione della nuova Giulia, sia un modo per attirare l'attenzione degli americani. Comunque sicuramente questo è un... Beh, quello è uno dei mercati principali, assieme a quello cinese e tedesco. Sì. Mi fanno notare gli ascoltatori, chiedo venia. Ho detto 6 valvole invece di 6 cilindri, chiaramente erano 6 cilindri, però attenzione, il modello non è solo quello da 500 cavalli, ci mancherebbe, mentre confermo che la previsione è di arrivare a 400.000 vetture. Grazie intanto al nostro Enrico Pagliarini. Qualcuno mi scrive: non male Fiat, Lancia, Alfa Romeo. Sì, erano i 3 marchi storici. Sappiamo già, l'abbiamo raccontato molte volte, che invece le prospettive per il marchio Lancia non sono di un rilancio, mettiamola così, di un rilancio come quello per l'Alfa Romeo. all'estero mica hanno visto l'Arna, ho capito, l'Arna, possiamo citare anche la Duna, insomma, sono macchine che non rientrano nel palmarès esaltante del gruppo Fiat, però guardiamo oltre e cerchiamo di dimenticare l'Arna. Traffico. Focus Economia. I greci e il governo greco devono sapere, e glielo diciamo con l'affetto di amici e con la vicinanza di chi sa le difficoltà che il popolo greco ha patito in questi anni, che esiste una fortissima pressione di parte delle opinioni pubbliche europee, in particolar modo di alcuni paesi, per utilizzare questa finestra che si apre come l'occasione per chiudere i conti con la Grecia e per eliminare una volta per tutte la questione della presenza della Grecia nella zona euro. Oh, così il Premier Renzi oggi al Senato sulla Grecia riconosce che c'è chi in realtà punterebbe a farla fuori dall'euro e a chiudere i conti con Atene. Insomma, non potevamo usare altro stacco musicale che My Head is a Jungle, perché qua veramente i nostri pensieri sono una giungla, non stiamo capendo più nulla, e lo dico con la massima serietà. Perché? La Grecia ha proposto, e su quello tutti i mercati si erano entusiasmati, tutti a dire bene, l'accordo è vicinissimo, di portare dal 26 al 29% le tasse sulle società una tantum del 12% sui profitti superiori ai 500.000 euro. Si è battuta però per mantenere le tre aliquote IVA, quelle del 6,5%, del 13%, del 23%, ma ha portato al 23% quella su alberghi e ristoranti, la famosa tassa che pagheranno i turisti, secondo la battuta e la vulgata. Ha eliminato le aliquote agevolate per le isole, correttissimo, anche perché il nero delle isole greche è ormai mitologico, visto che parliamo della Grecia. E qualunque italiano che si sia recato nelle isole greche sa che farsi fare una fattura lì è anche più difficile che in certe parti dell'Italia. Dicevo, ha eliminato le aliquote agevolate per le isole, ha aumentato anche i prelievi sulle grandi barche e poi bloccherà i pensionamenti anticipati al 2016. Ora, tutto sembrava tranquillo, poi è arrivato, poi Tsipras ha twittato: attenzione, c'è chi sta puntando i piedi, che non vuole l'accordo, nel caso specifico il Fondo Monetario Internazionale. Su questo vorremmo capire che cosa lascia così perplesso il Fondo Monetario Internazionale, che si è risvegliato. Prima aveva detto che voleva uscire dalla Troica e quindi non sapendo più della Grecia, adesso sta puntando i piedi. Vittorio Darold, l'uomo della Grecia per il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, che vuole il Fondo Monetario? A noi sembrava, fermo restando che Tsipras non poteva cedere su tutto, se no non si trovava più la maggioranza in Parlamento, che buona parte sulle pensioni anticipate, buona parte delle richieste le abbia accettate. Ecco, sulla parte IVA non ha voluto mollare sull'IVA 6,5% per alcuni prodotti. Se ho ben capito, il Fondo Monetario Internazionale fa notare che ci sono troppe tasse e meno tagli dei costi. Il Fondo Monetario Internazionale però è lo stesso che fece autocritica un anno fa sulle politiche adottate sulla Grecia, prima che se ne andasse il capo economista Blanchard. Ma insomma, che succede? Succede che il Fondo Monetario dice che c'è un effetto recessivo soprattutto verso le imprese, cioè la tassazione delle imprese, che passerebbe appunto al 29%, è eccessiva, e lui dice che basterebbe appunto dal 29 al 28%, e soprattutto non ci deve essere questa una tantum che colpirebbe le imprese con i dividendi del 12%. Questo dice che non ci deve essere, perché avrebbe un effetto recessivo per la timida ripresa in vista. Quindi si tratta di riportare verso i consumi, quindi ritornare a tassare i consumi e tagliare, non riguardo sulle pensioni, non aumentando i contributi, quindi anche qui bacchetta quello che ha cercato di fare Atene, ma devono tagliare di più, tagliare le pensioni, tagliare soprattutto ridurre delle indennità che andavano alle pensioni. Quindi c'è proprio due filosofie che si scontrano. Sì, però la Lagarde, che voglio dire è francese se non ricordo male, e dovrebbe avere anche una certa sensibilità per, vista la politica economica che adotta invece la sua Francia, capisce benissimo che se tu tagli le pensioni, io capisco che sicuramente non sia un vantaggio per le imprese mettere una tantum del 12% sui profitti superiori ai 500.000 euro, però forse avrebbe elementi ancora più recessivi ridurre le pensioni già di molto ridotte in Grecia. Cioè, un conto è bloccare i prepensionamenti e alzare l'età pensionabile, che è cosa buona e giusta, anche perché dà garanzie sulla sostenibilità del debito greco nel medio e lungo termine. Altra cosa è dare una bastonata ulteriore alle pensioni. Sì, esattamente, però quello che c'è dietro è proprio quello, cioè questo, cioè una differenza di impostazione. Non si vuole dare alla Grecia questa possibilità di ridurre, diciamo così, il peso, ma si vuole intervenire anche nelle fatture stesse nel dettaglio, cosa che Tsipras ha detto, ma nel caso del Portogallo e dell'Irlanda non siete arrivati a questo dettaglio, cioè avete detto qual è il saldo, bene, all'interno di questo saldo poi lo tieni come vuoi. Esatto. Invece... Sì, no, nel senso che fra un po' anche il Fondo Monetario Internazionale dirà anche dove e su chi, cioè, voglio dire, ogni governo, vale per la Germania, vale per la Francia, della Lagarde, vale anche per la Grecia, ha poi il diritto di scegliere come operare la manovra al suo interno. Quello che deve interessare ai creditori è la garanzia che tu sia in grado di ripagare o di rendere sostenibile il debito che hai. Poi come ci arrivi saranno anche fatti tuoi. Poi uno gli può dire stai attento perché in questo modo rischi di essere penalizzante per le imprese, e uno ti risponde sì, ma almeno non distruggo ulteriormente i consumi interni, perché i pensionati ormai in Grecia sono sulla soglia di povertà e alcuni sono anche sotto la soglia di povertà. Per cui insomma non capisco veramente questo rigurgito di leziosità da parte del fondo. Ma comunque secondo te stasera si chiuderà? Io penso che debba aspettare ancora una soluzione politica, perché se la questione a livello tecnico è così difficile da incontrarsi, perché dietro ci sono proprio due mondi diversi che si affrontano, perché naturalmente se il governo Tsipras accetta ad esempio di aumentare l'IVA dal 13 al 23 per i ristoranti, in Grecia penso che ci avrà anche poi tutta la rivolta degli alberghi, dei ristoratori, perché effettivamente è difficile iniziare una vabbè, da qualche una parte i soldi li deve trovare però sto governo Tsipras. Sì, però l'aveva appunto proposto ad esempio di eliminare lo sconto per le isole, che anche qui non è una cosa da poco, cioè abbastanza impopolare. Mi sembra che ci sia veramente un po' un tentativo di arrivare a qualche soluzione frettolosa, molto complicata. Non riesco bene a capire, ad esempio si chiede di aumentare la riduzione delle spese militari da 200 a 400 milioni. Vabbè, e qui ci sta, però 200 non erano pochi, cioè perché raddoppiare la riduzione delle spese? Cioè finché bisognava comprare i sommergibili tedeschi andava bene? Ecco, esattamente, adesso invece improvvisamente non va più bene, bisogna ridurle di più, che uno potrebbe dire giusto, ma... Vabbè, staremo a vedere, il Fondo Monetario Internazionale ogni tanto dovrebbe guardare in casa propria, ricordare il disastro che ha creato in Argentina con le sue politiche e ricordare quanto ha scritto non più tardi di un anno fa, ammettendo che l'austerità nei confronti della Grecia non aveva funzionato, aveva fatto precipitare il paese in una recessione ancora più viziosa e pericolosa. Grazie Vittorio D'Arold. Grazie a voi. Focus Economia ritorna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.